Italia in controluce. Buongiorno, buona mattina da Daniele Biachessi. Oggi è il 18 di gennaio e Italia in controluce, il programma che va in onda tutti i giorni alle 6.30 e 13.30. Oggi vi proponiamo un numero unico di Italia in controluce interamente dedicato ai testimoni di giustizia, che sono cosa diversa, lo ricordo, dai collaboratori di giustizia, dai pentiti. Il reportage di Raffaella Calanda nelle inchieste di Storiaccia. Uno studente della facoltà di medicina e chirurgia, quando sono stato invece inserito nel programma di protezione sono stato costretto a lasciare la mia città, è finito tutto, ho dovuto rinunciare alla mia identità personale. Sindacalista a livello nazionale, ero stato da poco eletto come consigliere d'amministrazione in una cassa di previdenza, eravamo due funzionari, avevamo amici e parenti, abbiamo dovuto troncare tutto. Quando raccontano la loro storia, parlano tutti al passato, perché tutti, ad un certo punto, hanno visto la loro vita ribaltata, nel momento in cui da semplici cittadini sono diventati testimoni di giustizia, perché hanno denunciato feroci killer e respinto insidiosi estorsori, o semplicemente perché, per caso, hanno assistito a brutali reati. Non hanno esitato, tutti si sono rivolti all'autorità giudiziaria e rivendicano quella decisione, ma tra i testimoni di giustizia sono sempre di più anche quelli che si sentono traditi e abbandonati dallo Stato. Alcuni hanno proprio cause pendenti col Viminale, in molti stanno unendo le forze per cercare di cambiare la loro condizione. Un malessere profondo, infatti, serpeggia tra i 70 testimoni riconosciuti dall'apposita commissione presieduta da Alfredo Mantovano e per questo, sia pur con grandissime difficoltà, a gruppetti alcuni si sono incontrati. Sono soprattutto quelli della prima ora, quelli dei tempi in cui ancora non c'era una legge specifica sui testimoni di giustizia introdotta nel 2001, ma anche gli altri non è esitano a delencare uno dietro l'altro le difficoltà della loro condizione e si uniscono alla battaglia per migliorarla. Veniamo dimenticati, eppure tutti sono contenti quando grazie alle denunce si arriva agli arresti, ripetono all'unisono. Una denuncia che Ulisse, nome di battaglia di un napoletano qualsiasi, non esitò a fare il giorno in cui il destino e il traffico della tangenziale lo portò ad assistere ad un delitto, il 15 ottobre 1990. Eravamo sulla tangenziale di Napoli, stavamo io e mia moglie sulla corsia di emergenza. Ci venivano incontro queste due persone, una che barcollava, era già ferita, e un'altra che la inseguiva e che poi l'ha raggiunto e l'ha finito. Sono andato direttamente alla stazione dei Carabinieri, noi abbiamo visto l'inseguimento, ma proprio bene, in faccia. Quando abbiamo rivelato ai carabinieri le sembianze di questo tizio, hanno subito capito chi era. Era il piccolo boss locale. La vita vostra, sua e di sua moglie, com'è cambiata? Allora, ci hanno messo la corona da morto fuori del cancello della nostra villetta dove abitavamo. Mi hanno soppresso il cane, mi hanno fatto un paio di volte degli inseguimenti e poi, servendosi di una coppia che conoscevo, lui vigile urbano, lei casalinga, ci facevano arrivare dei messaggi. Nel mese di gennaio mi convocarono in provincia, ve ne dovete andare, non siete più al sicuro. E dove andiamo? Noi abbiamo vi procuriamo noi una casa, prima andate in albergo, 10-15 giorni a massimo e poi vi diamo una casa. Io sto pagando il mutuo, ve lo estinguiamo. Ce l'ha un'arma. Mi fecero prendere subito rapidamente un porto d'armi. Il 28 di gennaio, di notte, ce li fecero andare da casa nostra. Dal programma di protezione Ulisse è uscito per decisione della commissione, anche se per i magistrati il pericolo per noi è immutato, precisa, elencando uno dietro l'altro danni e problemi affrontati da soli, denuncia. Eravamo in posti di responsabilità, ci siamo ritrovati a essere ultima ruota del carro. Il famoso mutuo che mi avrebbero estinto, me lo sono pagato io fino all'ultima lira. Poi ho svenduto quella e tutte le altre mie proprietà, veramente svenduta. Ho cominciato una causa contro il Ministero dell'Interno per il maltrattamento che abbiamo subito. In primo grado abbiamo perduto, perché nel frattempo si è fatta la nuova legge del 2001, quella che prevede la distinzione tra testimoni e collaboratori, ma dato che il nostro programma era cessato prima di questa nuova legge, secondo loro non ci spetta il trattamento previsto dalla nuova legge. Quindi chi ha avuto ha avuto e chi ha dato ha dato. Noi abbiamo chiesto un risarcimento per i danni che abbiamo subito. In più hanno fatto ammalare mia moglie. Molti Molti tra i testimoni di giustizia hanno storie anche di malattia e di disagio psicologico. Tutti, in testa alle loro richieste, vorrebbero un aiuto per trovare un lavoro e avere un appiglio intorno al quale costruire la nuova vita dopo essere spariti dalla precedente. Per questo si battono per l'approvazione di un emendamento per il loro inserimento nella pubblica amministrazione, anche se è casomai tutt'altra cosa rispetto ai progetti originari, come quello di diventare medico che aveva Giuseppe Carini, studente ai tempi in cui denunciò i boss Graviano di Brancaccio per il delitto di Don Puglisi. La fase più delicata per il testimone è quando la commissione centrale deciderà che è finito, a suo dire, il pericolo per l'incolumità fisica. Quando un testimone viene inserito nel programma di protezione può utilizzare una carta d'identità con generalità, diciamo, false, però questa carta d'identità non la puoi utilizzare in alcun modo, né per aprire, che ne so, un conto corrente, non puoi utilizzarlo per l'iscrizione universitaria, scriverti alle liste di collocamento. Io la mattina facevo finta di uscire da casa per andare a lavorare. La decisione di uscire dal programma di protezione è stata una decisione del tutto arbitraria da parte della commissione centrale che c'era allora. E come si fa a ritenere che il pericolo di vita per un testimone è cessato solo perché uno dei componenti del clan è in galera? Ci sono stati collaboratori di giustizia che sono stati assassinati anche dopo 10-15 anni. Non dimentichi l'ultimo episodio che è successo a Milano. Certo, lei a Garofalo. Rapita, torturata, uccisa e sciolta nell'acido. A lei concretamente che cosa è successo nel momento in cui è uscito dal programma da testimone di giustizia? Io ho chiesto una serie di garanzie. La situazione però è stata molto più pesante. Tanto è vero che moltissimi testimoni di giustizia hanno dovuto purtroppo ricorrere alle cure da parte di psichiatri. Io da studente della facoltà di medicina ho lavorato facendo il facchinaggio, come tagliaerbe, come cameriere, come metalmeccanico. Allo stesso tempo continuo ancora ad impegnarmi finché il Parlamento approvi finalmente questo emendamento presentato dal senatore Lumia e dell'onorevole Angela Napoli. Vi saluta qui Daniele Biacchessi, la mia voce torna oggi alle 13.30 su Radio 24.